Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, cambio lavoro, ho deciso. Ah sì? Voglio fare il portavoce di Donald Trump. Devo dire, non avrei molto da fare perché se vengono licenziati in serie. Pfizer sta reggendo, ma non credo molto. Vorrei fare il portavoce smentito ogni due secondi. Una vita infernale. Il poveretto, portavoce di Trump. Poveretto, poveretto, poveretto. Eh sì, vabbè. Povero, povero Sean Spicer. Va bene, eccoci qui. Però devo dire la verità. Non ci si annoia in questo mondo. Uno crede, dopo una certa età che fa questo mestiere, dice vabbè, le ho viste tutte. Invece no, devo dire la verità. Eh no. Sì, con Trump che dice sono il boss, I am the boss, posso svelare ciò che credo, in questo caso io. Comunque adesso dai. Ci sarà una settimana, questo grande primo viaggio all'estero di una settimana in cui vede le tre religioni del libro, perché vede il Vaticano, sì. Poi va alla Mecca, poi insomma vedremo. Sì, vedremo, speriamo. Beh dai, spero che in questa occasione insomma l'abbiano briffato bene. Ma il problema è che lui di brief ne ha quanti ne vuole, poi il problema è che lì per lì... Poi è Trump. Ieri ha srotolato il tappeto Erdogan dando un cazzottone in testa alla Germania e alla Merkel. Ieri c'erano i giornali tedeschi che raccontavano quando tre settimane fa sente la Merkel per telefono e inizia a parlare benissimo di Erdogan. La Merkel a un certo punto freddamente gli dice veramente ci definisce dei nazisti. E lui dice davvero? Non lo sapevo. Ecco, cioè, è così, c'è cioè un personaggio. È Trump. Singolare. Goofy Trump, come lo chiamo io. Va bene, insomma, oggi c'è un santo che ci proteggerà? Oggi c'è un santo che in uno dei film popolari italiani c'è anche una canzonetta che gli veniva dedicato, perché è San Pasquale Bailon, che era protettore delle donne in quelle... ed è effettivamente anche invocato dalle nubili. In realtà non c'entra molto, perché San Pasquale Bailon è un francescano spagnolo del 500, persona semplice, un teologo dell'Eucaristia, quindi siamo in pieno spirito della controriforma antiluterana, anzi fa una missione segreta anche nella Francia, molto delicata, per inoltrare dei messaggi col rischio di venire preso dai calvinisti, quindi un classico santo della controriforma, per così dire, e protettore, penso, dei cuochi, in teoria dei inventore cuochi. Dello zabaione, sì, perché lui nelle sue comunità, lui era un francescano, faceva i ruoli più umili, il cuochi, il padre guardiano, il portinaio, eccetera eccetera, però invocato anche dalle donne nubili, quindi San Pasquale Bailon. Detto questo, oggi che cosa ricordiamo? Ricordiamo il 1953, amici romani, l'inaugurazione di quello che si chiamava lo stadio dei 100.000, che poi è diventato lo stadio olimpico. Poi ricordiamo, meno felicemente, ma è una data che segna la storia italiana. Nel 1972 veniva ucciso oggi a Milano il commissario Luigi Calabresi, che indagava su Piazza Fontana, di cui adesso si parla di una beatificazione in corso. E il processo promissorio di Calabresi è una delle lunghe pagine della giustizia che spacca l'Italia, per così dire, perché quando poi si arriva dietro a una pista data alle procure della Repubblica da Leonardo Marino, reo confesso, e cioè la pista di lotta continua, e si arriverà alle condanne dopo un lunghissimo, combattutissimo iter processuale di revisione dei processi e così via, alle condanne di Ovidio Benpressi, di Giorgio Pietro Stefani e di Adriano Sofri, e Adriano Sofri e Giorgio Pietro Stefani come mandante, e Adriano Sofri ha una condanna di 22 anni di carcere. Questa pagina resterà aperta, perché nel dibattito pubblico la sentenza verrà da moltissimi respinta come ingiusta. Allora, non siamo riusciti a fare chiarezza nemmeno su stragi e omicidi che fanno la storia d'Italia, perché quello è stato proprio una vicenda di questo tipo qua, per così dire. Gianni Minà oggi compie gli anni, e con il suo giornalismo militante a favore dei regimi castristi e bolivaristi di tutto il mondo, lo dico con una nota polemica, però Gianni Minà, che il cui nome è stata storia del giornalismo italiano, e auguri anche a Elisabetta Gualmini, politologa, e che poi è diventata assessora oggi nella regione Emilia Romagna. Secondo me Elisabetta era meglio la politologa, ma lo so che tu sei appassionata politicamente. Alle 8:24 minuti, sì, dai, oggi parleremo della telefonata. La telefonata Renzi-Renzi, Renzi figlio, Renzi papà. Ma con la nonna no? No, oggi sul Corriere della Sera c'è anche un'intervista alla nonna, cioè la mamma di Tiziano, nonna di Matteo, e dice che il mio figliuolo Tiziano non ha mai detto le bugie neanche da piccolino. Quello che dice qualsiasi mamma, insomma, giustamente anche la mamma di Tiziano dice questo. Io posso farti notare una cosa, che il circo mediatico giudiziario in cui sono immersi 25 anni, oggi secondo me la vera notizia è l'Italia l'unica a crescere nel primo trimestre di quest'anno dello 0,2%, mentre l'Europa del doppio, ecco, noi c'è, cioè, delle cose reali, la politica riesce a non farci parlare. La politica, no, io intendo in questo caso il circo mediatico giudiziario, per cui da 25 anni qualunque partito orgasma e gode delle intercettazioni sbattute sui media che riguardano gli altri, quando poi riguardano se stesse urla delitto, delitto, illegalità, macchinazione, eccetera eccetera. Sì, in ogni caso, allora, questa è l'intercettazione che ha ottenuto Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano. L'ha messa in un libro, il libro si intitola Di padre in figlio, che tra l'altro da domani sarà in vendita con Il Fatto Quotidiano, giornale per cui Marco Lillo lavora, e ovviamente questa intercettazione fa molto discutere. Diamo il numero di telefono per gli ascoltatori, 800 24 00 24. Diteci quello che volete. Pensate che questa intercettazione non dovesse essere pubblicata, oppure giusto? Pensate che sia anche concordata? Qualcuno dice: ma come? Ma Renzi è talmente, non può essere così sprovveduto a pensare. Sapeva che era intercettato il giorno prima che doveva andare ai magistrati, esatto. E allora lascia i PM con la certezza che verrà poi pubblicata questa memoria perenne alla sua grande statua di moralissimo leader. E insomma, quindi ci sono varie interpretazioni. Tra l'altro Marco Lillo, che era in diretta con noi, adesso è caduta la linea, ma insomma stiamo cercando di recuperarlo al telefono, ma non prende la linea. Adesso non riusciamo a intercettare Marco Lillo. Non riusciamo a intercettare Marco Lillo, era in diretta fino a poco fa, ma adesso è caduta la linea. Ma tra poco lo recuperiamo. Insomma, quello che pensate, no, di questa intercettazione, per esempio, Oscar, bisogna dire che la procura di Roma, che indaga sulla vicenda Consip, ritiene questa intercettazione non rilevante. Ed è furibonda con... ed è furibonda con la procura di Napoli, perché è uscita... Non ci facciamo mancare nulla, come quindi dire. C'è anche lo scontro tra procure. Sì, ma dai. Io devo dire che ieri, quando ho visto sul Fatto Quotidiano, ma ne abbiamo anche parlato fuori onda, però lo dico agli ascoltatori, ho detto: oh mamma mia, cosa ci aspetta? La vicenda berlusconiana in qualche modo non è mai finita, e quindi altri vent'anni così, e c'è il rischio, sì, adesso non so se altri vent'anni così. Beh, è giovane il ragazzo, come dice la nonna, perché tu prevedi che per vent'anni sarà al potere, quindi no. Berlusconi non è stato tutti i vent'anni di potere, cioè, insomma, figura protagonista dominante, protagonista della politica. Beh, cioè, non lo so come la pensi tu, mi pare però che l'energia a voler rimanere al centro e con lo scettro in mano del giovane non sia proprio bassa. Ecco. Certo. È riuscito però, con un rito interno, a rinverginarsi una sconfitta clamorosa di fronte a tutto il corpo. Di fatto c'è, cioè, pienamente riuscito, ci vuole una grande energia, si combatte come un leone tutti i giorni, travolge chiunque obietti facendogli fare la figura del cretino, quindi insomma... l'uomo ha grande tempo. Comunque, insomma, io ho pensato questo. Ovviamente gli ascoltatori si dividono, appunto, a dire, moltissimi dicono la polpetta avvelenata, non ci cascate, eccetera. Il dato di fatto è che siamo a parlare, insomma, di questa vicenda. Sentite, facciamo così, vogliamo andare un attimo in pubblicità, nel frattempo recuperiamo Marco Lillo, perché adesso il cellulare risulta staccato, ma lo recuperiamo tra 3 minuti. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 17 al 19 maggio. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, siamo qua, caro Oscar, in attesa, adesso lo troviamo, lo chiamiamo, Marco Lillo, vediamo, Il Fatto Quotidiano. Però posso dirti, tu hai visto che il giornale, a proposito, perché noi abbiamo cominciato ieri, ci interrogavamo dicendo ci aspettano, siamo lasciati su questo, altri anni Berlusconi. E il giornale, anche in questo caso, per quello che può valere, ma insomma lo sapete che poi si possono interpretare a volte, ne abbiamo parlato spesso, a volte anche quando è ospite Sallusti, come messaggi politici, no? I criteri con cui fanno i titoli, perché i titoli del giornale di oggi vogliono liquidare Renzi anche lui per via giudiziaria. È un titolo che in effetti ci dà forza nel dire quello che stavamo dicendo prima, ci aspetta il bis, la cosa di Berlusconi, e con la differenza che il quotidiano, per così è più vicino, che interpreta la via di Berlusconi, come vedi non è che intinge il biscotto con favore, anzi dice, fanno proprio il bis dell'atteggiamento riservato, della persecuzione, insomma, dell'improprio utilizzo delle armi mediatico-giudiziarie utilizzati nei confronti di Berlusconi. Dice proprio così: strategia già vista contro Berlusconi, attacco mediatico investigativo per infangare e delegittimare il bersaglio. Sembra quasi di leggere La Vecchia Unità. Eh sì, e parla anche proprio di, scrive Sallusti, noi qui a leggere e scrivere di questa banda di cialtroni e di un'inchiesta fatta di bufale contro bufale, perché l'idea è appunto soprattutto che tra le procure ci sia uno scontro mica male. E poi ricordiamolo, c'è l'aspetto del capitano dei carabinieri del NOE che sui brogliacci adesso ricostruisce dicendo è stato Woodcock a chiedermi e così via. Insomma, ci sono aspetti dal punto di vista procedurale e giudiziario duri da buttar giù, visto che il senso intero di pezzi emersi all'inizio in un modo era nelle telefonate tutt'altro. Ecco, questo è anche vero. Quindi non ci facciamo, per così dire, mancare nulla in tutta questa vicenda. Andiamo a sentire Renzi cosa ha detto su questo. Ieri è tornato il Matteo Risponde a dire che da queste telefonate lui emerge positivamente. Stiamo parlando di pubblicazioni che la legge non permette di pubblicare. Quindi, siccome io sono per la legalità, sarei curioso di capire perché qualcuno sta violando la legge. E quel qualcuno non sono io, non siamo noi. Insomma, questa è la posizione di Renzi. Ma anche questa idea di pensare è intercettato, quindi... Questo si è però, precostituito una situazione. Siamo uomini di mondo, non possiamo immaginare che un figlio, comunque premier, il giorno prima in cui sa che il babbo, come si dice la Toscana, deve essere interrogato e sentito su avviso non avviso Romeo, di cosa avete parlato, la Consip eccetera, lo chiami non avendo modo di parlare dal telefono e non sappia che poi può finire esattamente nei brogliacci. È certo di saperlo. Questo poi ognuno può pensare in un certo modo. Io ripeto, io considero questa fuffa come la sintesi di un paese che a furia di utilizzare gli schermi del fumo per non parlare delle cose reali si perde nel fumo e il fumo prevale, perché poi questo è, stiamo parlando di questo, che è cosa diversa, lo voglio dire esplicitamente, dal fatto se nel giro più intorno a Renzi ci sia l'ombra del conflitto di interessi. Io sono convinto che spesso si sono visti gli estremi per dire che c'è questo conflitto di interessi, lo penso anche nel caso di Mariana Boschi su Banca Etruria. Cosa diversa dal considerare le cose sostanziali come se fossero violazioni di legge, eccetera. Stiamo parlando di opportunità e improprietà, solo che non si riesce a parlare nei termini dovuti perché tutto finisce sopra le righe, per così dire. Va bene, insomma, intanto c'è il mistero, caro Oscar. Marco Lillo non lo troviamo in questo momento e quindi non possiamo approfondire con lui del Fatto Quotidiano questa vicenda. Hanno intercettato, l'hanno intercettato a quest'ora. È così quando si è giornalisti, come nel suo caso, molto versati in queste materie, non sai mai. Segnale orario, no, è la procura di Firenze che irrompe sulla linea, no, è la procura di Teramo che irrompe sulla linea. Ovviamente si scherza. Abbiamo anche però, noi abbiamo chiamato un'altra ospite oggi su un altro tema, perché ieri abbiamo affrontato questo tema del dopo di noi, sì, no? Questa legge, e tra l'altro devo dire, ci ha scritto un onorevole, l'onorevole Margherita Miotto del Partito Democratico, che è membro della Commissione Affari Sociali, che ha seguito anche questa legge e che ci ha scritto una mail molto risentita, insomma, del fatto che abbiamo trattato questo argomento in maniera che non è piaciuto. Onorevole Miotto, buongiorno, intanto grazie per essere qui. Buongiorno a lei, grazie per avermi ospitato come voce in dissenso. Ma a noi piace le voci in dissenso. Certo, da dire sì, che sia io che Oscar, e c'era qui anche Gianluca Nicoletti che ha seguito moltissimo questa vicenda, non so se lo conosce, nostro collega. Sì, lo conosco, infatti che... sono sorpreso anche delle sue dichiarazioni. Voglio dire, c'era anche Antonio Nocchetti che fa parte di una Onlus e si occupa di moltissime famiglie che hanno problemi di disabilità. Occupa. Non si occupa di questi problemi, chiaramente, se hai capito. In che senso non si occupa di questi problemi? Scusi, no, non conosce. Ha dedicato una vita e dedica una vita per occuparsi di famiglie con disabilità. Forse lo conosce meglio, sicuramente meglio di me. Ma chiaramente non conosce l'evoluzione che ha subito questa legge da un anno a questa parte. Mm. Se no non avrebbe fatto le affermazioni di ieri. Io mi sono permesso di scrivervi perché io faccio tutte le settimane, guardi, lei va sulla mia pagina Facebook e trova tutti gli incontri che io ho fatto in tutta Italia su questa legge. Non benissimo, sono l'unica, sono l'unica. Ma non stiamo infatti mettendo in discussione questo. E non conosco situazioni come quelle che sono state descritte ieri. Per questo mi sono permesso di scrivervi. Mm. Ma adesso veniamo al merito. Ecco, sì. Cioè, cosa non conosce? Cosa non ha gradito? Insomma, qual è la contestazione che ci ha fatto ascoltare? Ah, semplicemente quello che vi ho già scritto. Beh, lo diciamo agli ascoltatori. Questa non è una legge per mettere in fila nuovi interessi, per creare business. Questo è offensivo. Questa è una legge che riconosce il diritto delle persone, come dice la Convenzione dell'ONU, di vivere con chi vuole, come vuole e dove vuole. Mm. Il principio, l'abbiamo questo detto, è questo è il principio. Ma cosa succede oggi in Italia? In Italia succede che se si perdono i genitori, c'è il ricovero in un istituto. Mm-hmm. E questo contraddice i diritti delle persone. La legge serve per garantire la vita in autonomia. Il più possibile. Questo serve la legge. Ma certo, ma onorevole, il principio della legge l'abbiamo è sacrosanto e l'abbiamo spiegato, no, Oscar? Abbiamo detto che la legge nasce così. Si discuteva, e lo facevano anche i giornalisti, eccetera, a dire che dopo un anno... Sì. Chi vive sul campo questa situazione riscontra che non ci sono tanti casi in cui questa legge viene applicata. Questa legge non distribuisce soldi a pioggia. Questa legge serve per finanziare progetti di vita autonoma messi in campo dalle famiglie. Per fare questo è stato necessario, poiché è una materia che è di competenza delle regioni, concordare un decreto, le modalità, le finalità, la destinazione delle risorse stanziate, che ricordo sono permanenti, perché con la legge si istituisce il livello essenziale di assistenza. Mm. Per dire che c'è un diritto in Italia, secondo la Costituzione, per fortuna, bisogna definire un diritto come livello essenziale. Vuol dire che quel livello essenziale deve essere continuamente finanziato. Sì. Per fare questo è stato quindi concordato con le regioni un decreto importantissimo, concordato a ottobre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio di quest'anno, che definisce le modalità attraverso le quali i fondi del 2016 sono utilizzati. Mi scusi, sono onorevole stati... Miotto, la questione è... quello che ha scritto la stampa in queste due pagine d'inchiesta... Purtroppo è sbagliato. È sbagliato. Quello che ha detto Gianluca Nicoletti è sbagliato. Quello che ha detto Antonio Nocchetti, nostro ospite ieri, è di uno che non conosce la realtà. Però sono tutte persone... Mi dispiace. Mi dispiace moltissimo. Sono tutte persone. Per scontrare che lei, onorevole, con un tono di assoluta superiorità nei confronti di tutti noi poveretti che ce ne occupiamo, perché evidentemente non riusciamo a capire, non mi interrompa, io non ho interrotto lei, sta mettendo in fila, e io l'ascolto religiosamente, come direbbe Mauro Meazza, ha messo in fila fino a questo momento rispettabilissimi e giustissimi, però, provvedimenti formali adottati. La sostanza di quello che i colleghi della stampa e che noi abbiamo riproposto ieri era, al netto dell'apprezzabilità e della svolta, delle intenzioni con cui il legislatore, voi tutti avete lavorato a queste affermazioni di principio e agli strumenti. Cioè, che cosa è cambiato? Nel concreto, che cosa dicevano i colleghi della stampa? E le famiglie si sentono solo, il titolo era 40.000 disabili fantasma, andava al nocciolo distinguendo tutta la serie di procedimenti da mettere in atto per l'iter legislativo che deve coordinare le competenze regionali, centrali. Siamo in Italia, lo sappiamo, e non si mette in discussione la vostra buona intenzione rispetto a cosa sta cambiando in concreto. Ecco, il cosa sta cambiando in concreto di fronte ai problemi delle famiglie era la nostra preoccupazione. Secondo lei sbagliamo? No, è una giusta preoccupazione. Tutto qua. Giusta. Però questa è una legge che una volta fissato l'impianto è permanente nei prossimi anni. Sì, allora concretamente cosa succede ora? Sì. Il 28 di febbraio le regioni hanno presentato le linee di indirizzo per utilizzare i soldi che hanno già in cassa del 2016. Il 31 marzo il Ministero entro 30 giorni quindi doveva valutare queste linee di indirizzo se erano conformi alla legge, perché bisogna giustamente fidarsi ma anche controllare. Ecco. Ora i provvedimenti sono tornati in regione e nelle singole regioni si stanno facendo i bandi. I bandi per poter partecipare, poter ottenere i finanziamenti, finanziare i progetti. Nel frattempo le famiglie non sono rimaste inerti. Le famiglie avevano già in testa cosa fare. Le associazioni delle famiglie si sono già messe in moto. Gli enti locali hanno già in mente come fare per dare, per consentire alle persone con disabilità nel tempo, perché non è che mancano i genitori, vengono meno i genitori improvvisamente, no, chiaramente, non a caso la legge definisce una platea potenziale e quando si presenta il problema deve trovare una soluzione abitativa autonoma. Assistita, protetta. Allora, onorevole Miotto, facciamo così, noi questa storia, come tutte le storie, la seguiremo, certo, vediamo se poi tutti questi protocolli che lei dice che verranno firmati, e noi insomma abbiamo solo il dubbio che in Italia, l'abbiamo studiato in tante storie di burocrazia, di lentezze, purtroppo a volte ci sono famiglie che non è facendo una legge con tutto, io apprezzo la vostra del problema, e io poi difendo anche Andrea Malaguti che seguo da una vita, il collega della stampa. Cioè, onorevole, partiamo da un presupposto: darci degli ignoranti di parte, da parte di un politico, non è mai molto intelligente. Glielo dico in faccia con la stessa brutalità con cui ieri ci ha scritto, dandoci degli incompetenti. Chiaro? Io ho detto punto. Che non conoscete. E io ribadisco quello che le ho detto. Mi dispiace per lei se crede davvero che la conoscenza di articoli di legge sia la soluzione del problema. No, comunque, detto, come vede, esempio, l'abbiamo ospitata e lei ci ha messo in fila i tempi, le procedure, eccetera. Ed è giusto così. Ed è giusto così. Che facciamo gli interessi delle assicurazioni? Sapete che le famiglie che fanno una polizza di assicurazione che beneficio hanno con questa legge? 44 euro all'anno. Ma questo ecco, però l'avete detto, ecco, erano chiusi che lo diceva il nostro ospite. Sì. Quindi, però comunque insomma, no, non stiamo lì. Ma io rispetto, apprezzo, perché è verissimo che lei ha messo in questa battaglia un impegno straordinario. Questo chiunque segua, abbia seguito la cosa, lo sa. Mi dispiace solo essere interpretati come degli ignoranti incompetenti, no, che parlano tanto per, tanto per, tutto qua. Potremmo... E reciprocamente il giudizio è: imparate a giudicare meglio l'informazione, punto. Assolutamente, ci mancherebbe. In ogni caso, onorevole Miotto, come vede, noi siamo, come dire, aperti alle critiche, a tutto, esatto, e la riospitiamo. Anche l'altra cosa, insomma, giustamente, che ci ha fatto un po' specie, è che di questi temi quasi nessuno parla. Noi tentiamo di parlare. Abbiamo parlato, però lei ci ha fatto le critiche, a dire, ne avete parlato anche in maniera errata per i motivi che ci ha esposto oggi, e sarà ben accetta sempre a dirci dove sbagliamo, dove diciamo le cose giuste, insomma, a discutere, va bene? Grazie, e la ringraziamo, non succederà più. No, la ringraziamo molto, onorevole Margherita Miotto del Partito Democratico. Vabbè, insomma, ci auguriamo che tutto vada per il meglio. No, certo. Qualche scetticismo, diciamo, è motivato come osservatori di lungo periodo della società italiana. Io poi a volte con i politici sono duro, ma perché bisogna. No, ma poi voglio dire, ognuno lo scetticismo suo, non era il nostro, ma di chi? Insomma, Gianluca Nicoletti, esatto, che sta si occupa di queste vicende, parte della vita proprio per. E che è uno che, come ci ha detto ieri, ha sostenuto questa legge dal primo giorno e che ora giustamente ne vede alcuni aspetti critici. Antonio Nocchetti passa una vita ad aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie, qui sono persone che almeno sul campo qualcosa vedono, ma più di me sicuramente. Andiamo agli ascoltatori. Fabio da Milano, buongiorno Fabio. Sì, buongiorno. Io volevo poter intervenire sulla questione della telefonata. Sì, la stai telefonando io, dica. Esatto. Ma io, se posso dare la mia opinione, certo, mi pare proprio che in questo paese si possa dire tutto di tutti senza magari neanche avere uno straccio di prova. Perché da quando è entrato in politica Renzi, gli è stato tirato addosso di tutto. Lei lo sa che è l'esatto Bortoli argomento berlusconiano, tale quale, stiamo sempre ripetendo la parabola. Guardate, uguale. Io non so se è la stessa cosa che è successa a Berlusconi, però io vedo nell'ultimo periodo De Bortoli, che per carità rispettabilissimo giornalista, che dice una cosa, però non dà un minimo uno straccio di prova. Però intanto la dice e il suo libro vende. Poi De Lillo, che perché per carità lui è un giornalista, quindi ha fatto la sua notizia, probabilmente non gli si può dire nulla, però a questo punto mi verrebbe da dire, prendiamo tutte queste persone che fanno, troviamo tutte queste persone che fanno uscire queste fughe di notizie che sono illegittime e sbattiamole in galera, dato che non c'è un minimo. No, guardi, effettivamente siete Fabio, la fotocopia. Effettivamente Fabio, è proprio sì, quando io ieri ho detto ci aspettano anni tra virgolette di berlusconismo, è proprio questo. Cioè gli argomenti dei sostenitori sono uguali. Gli argomenti, è entrato in politica e da quel momento viene criticato, e questo è esattamente l'impianto detto di Berlusconi, da quando è in politica criticato. Comunque per carità, questo non significa Fabio mettere in discussione la piena legittimità, l'assoluta trasparenza delle sue convinzioni, assolutamente, perché siamo da osservatori con due passi indietro, dobbiamo fare anche un altro compito, quello di stimolare chi ci ascolta a un po' di spirito critico distaccato. Lo spirito critico distaccato è la replica di una storia che abbiamo seguito, già visto e seguita in tutti i passi, dall'inizio alla sua esplosione, alla sua consumazione, alla sua proprio agonia totale, eppure ci risiamo. Adesso Oscar è qui a dirci che potremmo anche spoilerarvi le prossime puntate, più o meno lo sappiamo. No. Romeo da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Ma io avevo chiamato perché facevo riferimento, avevo ascoltato ieri sera in TV Caro Figlio, ex magistrato, il quale ha fatto capire chiaramente che le intercettazioni escono perché i magistrati le fanno uscire, perché lui non ne ha mai fatto uscire una con un accorgimento molto semplice. Chiedevo la lista di chi era a conoscenza di quelle intercettazioni. Non è mai successo niente. Sì, no, non sempre solo i magistrati, se vengono per esempio date agli avvocati, qualcuno, nelle diverse fasi del procedimento c'è una diversa disciplina della riservata. In questo caso non stiamo parlando di materiali messi a disposizione delle parti, quindi sicuramente viene alla procura, e in più stiamo parlando di materiale in cui la procura subentrata rispetto alla precedente ha un giudizio rispetto all'altro. No, ma su questo Romeo, in questa intercettazione lei ha ragione, perché era in un cosiddetto brogliaccio, cioè non depositate, non consegnate alle parti, quindi è uscita dalla procura di Napoli. E questo... Però l'impressione qual è? Che quando c'è qualche politico forte, Berlusconi prima e adesso, c'è un potere che serpeggia nascosto nelle magistrature, che naturalmente si fa seguire da una pletora di cialtroni giornalisti che ci marciano e vivono, e questo mi piace questo passo, perdoni, lei parla dei magistrati in un tono, poi arriva ai giornalisti e sono cialtroni. Cita quello che dice Sallusti, è chiaro. Una pletora di giornalisti cialtroni che inseguono queste procure, che vogliono sempre mettere in difficoltà qualche potere politico. Lei se la ricorda la campagna dei giornali di destra? Io ci ho lavorato, lo so. Una banca. Guardi, in Italia ognuno gode di quelle sull'altro. E fa la vittima di quelle su se stesso. Siccome ho lavorato su giornali da una parte e dall'altra, l'ho visto come funziona. Non c'è nessuno candido, puro sulle intercettazioni altrui. Giorgio da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire solo una cosa, che siccome è in atto una lotta di potere, non tanto per governare l'Italia, ma per il potere... Mi piace questa premessa. E poi volevo dire anche che il ducetto Renzi, grande borrioso... Vabbè, lei è pisano, però... Pensate che non ad essere intercettato. Questa è la patata, cioè un boccone avvelenato per i beoni che ci credono. Però lei è pisano, non vale, sa... Cosa vuol dire questo? Dai, una battuta, Giorgio, sui campanili toscani. E soprattutto, dai. Giorgio, quando si parla di intercettazioni, mai usare il termine patata, esatto. Che si viene sempre equivocati. Lo so, però ne è venuto patata, caro Giorgio. Sì, vabbè, tanto io c'ho nulla da nascondere. E sono all'alti livelli che stanno da nascondere quando vengono intercettati, perché lo sanno, lo fanno apposta, capito? È tutta una psicologia per mettere di mezzo i bevoni che credono a tutto. Bevoni. Che meraviglia la sua lingua. Oggi, ma io lo dico davvero. Cialtroni, bevoni. Così dovremmo tutti patata, parlare. Beh, vabbè, capisci che ha un'evocatività. Insomma, abbiamo il nostro Trump. Abbiamo il nostro Trump, secondo Giorgio da Pisa. In pratica potremmo riassumerlo così. Va bene, dai, ci dobbiamo fermare qui con Lorenzo Nespoli in redazione, Elisabetta Fusconi, Peter Bescapè in regia. Dunque, domani la nonna, però. Voglio la nonna. La nonna. La nonna. La nonna che dice che... Però comunque abbiamo graziato la pessima battuta di Berlusconi sulla mamma. Dai, sono pessima. Vabbè, ma... Cioè, pessima. Ma Berlusconi è Berlusconi, la mamma di Macron. Pessima. La mamma di Macron, ovviamente, pessima. È la moglie. Ma moglie, azzeccatissimo mamma. La cosa. Io non sono un grande sostenitore. Un ragazzo di 39 anni, però con belle esperienze di lavoro alle spalle e soprattutto con una bella mamma che l'ha portata nel braccio. Però stavolta ha azzeccato Gramellini, Brigitte Berlusconi, perché qua Brigitte è lui era papi, con le ragazzine. Papi. Quindi sai com'è? Brigitte Berlusconi non male. Va bene, dai. Va bene, dai, a domani.